Lucia Parise. Presente. Stefania Aprile. Presente. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Senta, professore. Sì, dica. Come mai ha scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente? Chi? Lei. Beh, vede, ragazza, qual è la telecamera? È questa, sì. Io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più. Proprio è difficile, cioè non c'è dialogo ormai. È rimasto solo lo sguardo, un po' afflitto. E quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè noi non comunichiamo, siamo incom. Capisce? Grazie. Che era una vecchia cosa, un telegiornale che c'era anche prima. Adesso... Grazie. No, stia in piedi per favore che non ho finito di parlare. E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto Prisencolinensina Inciuso, che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno, non c'è rimasto più nessuno, sono solo io, basta che diciate Prisencolinensina Inciuso e tutto vada giù. Adesso voglio vedere se siete appunto preparate su questa cosa. Prison calling ain't the night you saw. You can call me and say one. Prison calling ain't the night you saw. All right. You got them and don't.